Lupo Nair, Summer Spurgo. Giovedì e quindi esce Lupo Nair Summer Spurgo. Siamo arrivati al decimo episodio, decima puntata della versione estiva di Lupo Nair con Vanni e Flammi, che va salutato solamente all'inizio. Adesso vi intratterrò per questa oretta scarsa facendovi ascoltare della musica che mi garba a me. Abbiamo iniziato con Masterpiece, che è un tipo che è inglese, che Peace o Kinze, e questo è il suo nome reale, infatti Masterpiece è il nome d'arte, che fa pop rock dall'Inghilterra. Questo brano intitolato I Might Be Fake, tratto dal suo ultimo album How to Make a Masterpiece. Evviva, evviva, mo basta con la felicità, passiamo subito, no, anche felicità anche questa, anche se diversa. Sono i Total Hell, una band di speed metal misto punk hardcore crust, che viene da New Orleans, Louisiana, Stati Uniti, ed hanno da appena pubblicato un album intitolato Killed by Evil, proprio pochissimi giorni fa, ed è fortissimo, e quindi l'ascoltiamo un pezzo, nella gioia di essere banditi dalle tombe, banished to the tombs, alle tombe. Ha detto banished to the tombs, loro sono in total hell. Like never left, running away, running away. Lupo Nair Sommerspurgo. carina questa IBM da Detroit, che è il luogo di provenienza di questi Comfort Cure, che fanno, sì, appunto, IBM, techno post-punk misto. Questo brano intitolava Last Thing ed era remixato da Anthony Maiovvi, che invece è uno un altro giro, robe più 80s, bordello a Parigi, robe così. E adesso passiamo in Svezia ad ascoltare un altro remix, però. In questo caso il remix l'ha fatto Sean De Winzer, che è uno che suona nell'attuale formazione del Clan Oxymox, come si dice, boh, non l'ho mai saputo. Ha remixato un brano, un singolo titolato Something New, dalle ultime pubblicazioni dei Principe Valiente, che nonostante il nome è una band svedese di Stoccolma, che è stata definita più volte dark pop, in pratica un post punk molto, molto caruccio e presentabile. E in attesa del loro prossimo album, ascoltiamo questo singolo, Something New, remixato da Sean De Winzer, The Clan Oxymox. Oxymox, boh, lo sapremo mai, boh. Mersburgo. Com'è bello passeggiare per la spiaggia e guardare i cui. Sono tutti quanti molto belli, a tutti piacciono i cui. Ehi, ne voglio ancora e voglio tutti quanti i cui. Li prendo sempre a morsi, ma quanto sono belli i cui. È meglio stare pronti, le devi guardare tutte, non farti mai scoprire perché sei un maiale. Sono tutte sole belle e fresche, ma non fa niente se non hai le tette. Li l'importante è che però hai un bel culo. Sono un pervertito, la notte sogno sempre puri. Ho gli ormoni a mille. Fermate un attimo, scusate un attimo, scusate l'interruzione, qui c'è un piccolo colpo di scena. Perché a me piacciono anche i piedi. Se ne vado pazzo, ma che fatica perché sono due. Sai lo smalto rosso, risalta molto i tuoi occhi blu. I tuoi occhi blu. Guarda, è incredibile come tu possa parlare di queste cose nel 2024, bro. Tu sei un maschilista, ecco. Tu tratti le donne come se fossero un oggetto. Sei un oggettista, ecco che cosa ma sei. Ma a me non risulta questa. Vergognati. Ho capito, ma... Quindi, per cortesia, cerca di maturare e smettila di restare impalato a fissare culi, tette, scusa, piedi, scusa, perché io proprio veramente non so più che cosa fare con te. Scusa se ti interrompo, ma volevo sapere se puoi ripetere una parola che hai detto poc'anzi. Cosa vuoi che ti ripeta, eh? Per caso la parola maschilista, no, vabbè, perché maschilista, è quello che sei, amico, ok? Ma maschilista è un parolone. No, era un'altra parola che volevo sentire. Ah, e per caso volevi sentirti dire oggettista? Sì, perché tu tratti le donne come se fossero un oggetto, sì, come se fossero un quadro, oggettista, no? Però te lo sei inventato tu. No, comunque non è questa la parola che voglio sentire. È una parola un po' più rotonda, più corta. Se la ripeti. Sì, ho detto che devi smetterla di sbavare quando guardi un culo, delle tette, dei piedi. Eccole! Hai una certa età, le tette! Come ho fatto a non metterci prima? Se ritiro tutto, le tette grosse sono troppo belle. Ma se non hai le tette, l'importante è che convenzi indietro. Tu sta la pava alla bocca, e forse è meglio se mi calma un po'. È meglio stare pronti, le devi guardare tutte, non farti mai scoprire perché sei un maiale. Sono tutte sole belle e fresche, ma non fa niente se non hai le tette. L'importante è che però hai un bel culo. Adesso Alessandro ci rende... canta cacato. Cacato, cacato, cacato, cacato, cacato, cacato, cacato, cacato. Una canzone di una parola sola? Sì. Cantane un'altra. Grazie per averci... insomma, illuminati sulla vostra passione per i culi, passione condividiamo noi qua di Lupo Ner Sammespurgo, grazie a Bonzo e Belmonte, una simpatica coppia di canaglie che arrivano da Cosenza e ci hanno fatto divertire forse con questo album intitolato Culi, con l'album intitolato Sugo, il brano era Culi, Culi, Culi, Culi, Culi da sugo, Culi da sugo di Bonzo e Belmonte. Bene, e adesso passiamo alle Marche, dove si parla di robe serie, perché si parla del ritorno, dopo 20 anni abbondanti, degli Hydra, una band di thrash death metal da Ancona e dintorni, che veramente sembrerebbe che dopo il loro album Hyperlogical Nonsense del 2004 non ha fatto più nulla fino ad ora, che hanno da poco dato in pasto un singolo nuovo intitolato Forever Hide, che anticipa l'album Live to Nowhere che uscirà a ottobre. Nel frattempo noi non ci tratteniamo e vi facciamo ascoltare questo brano Forever Hide degli Hydra. Lupo Nero, Summer Spurgo. Thank you. poi andiamo tutti a ballare. Eh sì, perché questo era Vladimir Dubishkin, che sembrerebbe che venga dalla Russia veramente, da Tambov, esisterà? Sì, credo di sì. Questo è tratto dal suo ultimo album, Ivanovo Night Lux, tecno, che vede un po' di... Il brano era Sinking Horse, cioè sinking, cioè, a cavallo che affonda, sarà quello famoso. Comunque, passiamo a parlare di altro, con posti sempre freddi, dal freddo della Russia al freddo di Berlino, Cold in Berlin, anche se la band in realtà è inglese, di Londra. Hanno pubblicato nella loro carriera 4 album, ma dall'ultimo EP, The Body is the Wound, che andiamo ad ascoltare questo brano intitolato Spotlight, che dire, post-punk? Sì, post-punk, abbastanza tristino, death rock, tristino. Qualcuno dice che c'è pure traccia di metal, io non faccio fatica ad ascoltarle. Comunque, ascoltiamoli e poi ne parliamo, che magari al bar. Cold in Berlin, Spotlight. Lupo Ner Summerspurgo. Viene solo da dire yeah al cospetto del garage punk dei Mannequins di Nyköping, Svezia. Sono attivi dal 1999, ma questo è l'ultimo un brano dell'ultimo album, Swedish Woods, che abbiamo ascoltato. Il brano si intitolava By My Side. Continuiamo a circolare, ad esplorare spazi poco conosciuti, tipo l'Irlanda. Ok, famosa l'Irlanda, Galway è una città insomma fondamentalmente importante, ma di black metal e death metal dall'Irlanda non ce n'è poi tantissimo, per cui è il momento di ascoltare i Veln, debuttanti, formatisi a dicembre, hanno appena fatto un album intitolato appunto Veln, e ascoltiamoci un branone che è Godskin Mask. Loro sono i Veln da Galway, Ireland. Yeah. Lupo Nair. Summer Spurgo. Via via zompettando siamo arrivati al termine di questa puntata di Lupo Nair Summer Spurgo, ascoltando gli Hollow Reflection, che vengono da Amsterdam, Paesi Bassi, però il titolo di questo brano era in cirillico. Perché? Perché fanno questo? Saranno russi di origine? Non lo so. Comunque tra post-punk, synth-punk, EBM, che dir si voglia, abbiamo ascoltato il brano in cirillico, ve l'ho detto, che in inglese sarebbe You Burn, che in italiano vuol dire bruci. Bruci, noi no, perché adesso si è fatto freschino, grazie al cielo, e abbiamo recuperato le nostre attività vitali, o meglio, il nostro equilibrio biologico si è fatto quasi normale. Stiamo superando quest'estate, la stiamo superando, e niente, ci salutiamo giovedì prossimo, credo, spero. E nel frattempo chiudiamo questa puntata di Lupo Nair Summer Spurgo con il brano Fascination di Leathers. Leathers è il progetto solista di Shannon Hammett, tastierista dei canadesi Actors, post-punk da Vancouver, e lei da sola fa sta cosa qui, sto specie di synth-pop misto dream-pop misto EBM. E ascoltiamo questo brano, Fascination, dal suo ultimo album Ultraviolet. Lei è Leathers e questo era Lupo Nair Summer Spurgo. Thank you. Lupo Nero, Summerspurgo. Mi sono scordato una cosa importantissima che fa molto anni 80-90. Miau.